Il giardino. Che te ne pare? Chiesi a Gabriel. Funziona, rispose contento. Bella idea, bravo. Lo so che sono bravo, risposi io. Gabriel era seduto su una panchina nel parco di Ashikaga, in Giappone, immerso tra grappoli pendenti dei glicini. Stava collaudando una mia invenzione, una penna, pennello che permetteva di dipingere con tutti i colori senza aver la necessità di avere con sé tutto il kit di pennelli, acqua, spugne, tavolozze per la miscelazione. Era tutto nella penna. Sono un genio. Gabriel era così concentrato sul suo lavoro che non si accorse che tre giovani ragazze si erano avvicinate e lo osservavano sussurrando tra di loro commenti su di lui. Insomma, per farla breve, mio fratello aveva fatto colpo sulle tre giovani, se ne accorse per caso quando alzò lo sguardo e le vide sedute sulla panchina davanti alla sua. Quando lo sguardo di Gabriel incrociò le tre ragazze, quelle arrossirono all'istante, e lui sorrise divertito. «Sei un artista?» gli chiese una. «No, sto provando l'invenzione di mio fratello», rispose lui mostrando la penna. «Possiamo vedere?» chiese l'altra. Come Gabriel annui, le tre erano già intorno a lui. «Ma non stai dipingendo questo giardino?» si sorprese una delle tre. «No». Gabriel continuò il suo lavoro, aggiungendo al suo quadretto quattro figure maschili. André camminava da solo nei vialetti di un giardino formato da composizioni di Delphinium gilliglicine lilla mimose caprifoglio. Non ti scordar di me orchidee tulipani solidago crisantemi rossi. Non capiva dove si trovasse, capiva che stava sognando. Era inebriato dal profumo dei fiori e dai loro colori. Si guardava intorno cercando di capire cosa fosse quel posto e perché fosse lì. La via gli apparse accanto prendendolo sotto il braccio appoggiando la sua testa su quella di André. Lo so che non sei romantico, le sorrise, ma sei sufficientemente sensibile. André non capì. André e la via continuarono a camminare tra i fiori. Immersi in una serenità che André non aveva mai provato. André camminava pensando e ripensando a quanto fosse stato fortunato. Per aver avuto in sorte una vita priva di scossoni e di amarezze. Ma la gioia e la beatitudine che sentiva in quel momento gli era del tutto sconosciuta. Ogni tanto guardava la via, credendo fosse lei a trasmettergli quelle emozioni. «No», le rispose la via che ascoltava i suoi pensieri, «non sono io». Gli sorrise accarezzandogli il viso. Andrea si sentì attraversare da uno strano turbamento, quasi si commosse. Alan da solo nei vialetti di un giardino formato da composizioni di Delphinium gilliglicine lilla mimose caprifoglio. Non ti scordar di me orchidee tulipani solidago crisantemi rossi. Non capiva dove si trovasse, capiva che stava sognando. Era inebriato dal profumo dei fiori e dai loro colori. Si guardava intorno cercando di capire cosa fosse quel posto e perché fosse lì. Abuya gli apparse accanto. Sai cosa rappresentano questi fiori? Chiese ad Alan. No, è André l'esperto, gli rispose. Sai dove ti trovi? Punto interrogativo continuò a domandare Abuya. No che non lo so. Sai perché sei qui? Uff, sbuffò Alan alzando gli occhi al cielo, non mi ci raccapezzo nelle vostre filosofie. Ma perché non provi a lasciarti andare? Alan le rispose con uno sguardo beffardo. Fermati un secondo, rise Abuya, non ti piace questo posto? Sì, bello è bello e me? Tanto è un sogno. Ci sono sogni e sogni, ridacchiò Abuya. No. Dai ti prego, esclamò Alan spazientito, non ce la posso fare. Marcel da solo nei vialetti di un giardino formato da composizioni di Delphinium gilliglicine lilla mimose caprifoglio. Non ti scordar di me orchidee tulipani solidago crisantemi rossi. Non capiva dove si trovasse, capiva che stava sognando. Era inebriato dal profumo dei fiori e dai loro colori. Si guardava intorno cercando di capire cosa fosse quel posto e perché fosse lì. Era avvilito, demoralizzato, si lasciò cadere seduto su una panchina circondata dai fiori. Piegato in due sulle ginocchia fissava il suolo. Manakel gli apparse accanto e si chinò su di lui provando a consolarlo. Ogni volta è la stessa storia, si lamentò Marcel, ero sicuro che fosse la persona giusta e invece mi tocca ricominciare da capo. Io non voglio rimanere da solo. Perché dovresti rimanere da solo? Chiese Manakel, chissà quanti altri conoscerai. Tu di queste cose non capisci niente, lo rimproverò Marcel. Manakel fu sorpreso da quella reazione. Ma che ne sai tu? Voi non avete questi problemi, continuò Marcel. Chi può dirlo? Ironizzò Manakel appoggiandosi alla panchina stiracchiando le gambe. Guardò davanti a sé e fece l'occhiolino a Gabriel. Gabriel sollevò lo sguardo dal suo disegno e gli sorrise. Marcel continuava a starsene ricurvo su di sé con i gomiti poggiati sulle ginocchia. «Non ti abbattere così», gli disse Manakel. Manakel in effetti non sapeva come consolarlo. All'insaputa di Marcel. Lanciò un'occhiata interrogativa verso Gabriel alzando le braccia in segno di resa. Sperava in un suo suggerimento. Gabriel gli rispose con un sorriso alzando le spalle, con un lieve cenno del capo lasciò intendere di non dargli troppo peso. Era da solo nei vialetti di un giardino formato da composizioni di Delphinium gilliglicine lilla mimose caprifoglio. Non ti scordar di me orchidee tulipani solidago crisantemi rossi. Non capiva dove si trovasse, capiva che stava sognando. Era inebriato dal profumo dei fiori e dai loro colori. Si guardava intorno cercando di capire cosa fosse quel posto e perché fosse lì. Rochelle gli apparse accanto. «Vogliamo dare una sistemata al tuo camper?» chiese a Gerard. «In effetti sarebbe proprio il caso, ultimamente io e Franoise non abbiamo più fatto gite», rispose sommessamente Gerard. «State sempre a bisticciare», replicò Rochelle, «dai sali su io intanto raccolgo un po' di fiori». Gerard riordinò l'interno del camper. Rochelle portò parecchi fiori dal giardino. Tutto il camper si saturò di profumo. Gerard e Rochelle sistemarono i fiori in ogni angolo del camper. Divenne il prolungamento del giardino. Gerard si fermò a guardare il camper, non era mai stato così colorato. «Senz'altro la tua Franoise apprezzerà quest'infiorata», rise Rochelle. «Ma... Franoise è una tipa sportiva», rispose dubbioso Gerard, «non l'ho mai vista comprare fiori», poi trasalì. «Piuttosto sembra tutto pronto per ospitare una principessa», rise. «Eh sì. Hai detto bene», esclamò Rochelle. Gabriel aveva terminato il suo disegno. «Disegni bene», disse una delle ragazze. «Lascia perdere ragazzina», intervenne bruscamente un vecchietto che si stava avvicinando a loro camminando ricurvo sul bastone, «è inutile che fai la smorfiosa». Gabriel e le tre ragazze si voltarono a guardare il vecchietto. «Ma che vuole?» brontolò una. «Lascia perdere», insistette il tipo, «lui non è un uomo come noi». «Certo come te non è di sicuro», bisbigliò una. «Lui è un arcangelo», continuò imperterrito il vecchietto, «lo sapete che cos'è un arcangelo?» Gabriello guardava divertito, le tre ragazze si misero a ridere. «E questa, da dove è sbucata?» disse una strattonando la sua amica. La via era apparsa alle spalle di Gabriel china sul disegno appoggiato sulla panchina. «Anche lei è un arcangelo?» chiese una ragazza. «No, lei è solo un angelo semplice», rispose sicuro di sé il vecchietto. «Sono una sua ex allieva», disse la via appoggiando il mento sulla testa di Gabriel. «Me lo regali?» chiese la giovane indicando il disegno guardando la via con un attacco di gelosia. Gabriel rispose di sì ma la via si sedette sulla panchina, completò il disegno inserendo uno stendardo raffigurante un nuovo personaggio. Si alzò il vento. Rochelle si appoggiò alla parete del per osservare Gerard. Gerard si affacciò da uno dei finestrini del camper e vide uno stendardo mosso dal vento. Si voltò verso Rochelle sperando in una spiegazione. Ma Rochelle lo osservava muto. Gerard allora uscì poco fuori dal camper. Rochelle lo seguì continuando ad osservarlo restando alle sue spalle. Lo stendardo raffigurava una figura femminile. Che a braccia alzate puntava una spada verso il cielo. Gerard disorientato si voltò verso Rochelle. Rochelle lo fissò dritto negli occhi senza dare spiegazioni. Si alzò il vento. Manakel invitò Marcel a guardare poco distante da loro. Marcel notò uno stendardo mosso dal vento. «Non c'era prima», disse Marcel. «Adesso c'è», rispose Manakel. Marcel si alzò dalla panchina e si avvicinò allo stendardo. Manakel lo seguì come un'ombra. Marcel osservava interdetto lo stendardo. «Assomiglia al personaggio di una mia coreografia», disse Marcel indicando lo stendardo. «La coreografia che ti ha fatto incontrare André», confermò Manakel, posando una mano sulla sua spalla. Lo stendardo raffigurava una figura femminile. Che a braccia alzate puntava una spada verso il cielo. Marcel incuriosito si voltò verso Manakel. Manakel lo fissò dritto negli occhi senza dare spiegazioni. Si alzò il vento. Alana si ritrovò da solo. Abuya non era più accanto a lui. Alana si sentì smarrito e si guardò intorno per cercarla. Ma Abuya non c'era. Alan iniziò a camminare tra le aiuole del giardino. Voleva ritrovare Abuja. Il vento si fece impetuoso, muovendo foglie e petali vorticosamente. Ad Alan sembrava che il vento, le foglie ed i petali volessero aggredirlo. Camminava riparandosi gli occhi con un braccio. Poi il vento cessò. All'improvviso. Di colpo. Il silenzio. Abbassò il braccio. Trovò Abuja davanti a lui. Seria. Severa. Indicò ad Alan di guardare alle sue spalle. Alan si voltò. Alan si ritrovò davanti ad uno stendardo. Ne fu rapito. Lo stendardo raffigurava una figura femminile, che a braccia alzate puntava una spada verso il cielo. Alan ammirato si voltò verso Abuja. Abuja lo fissò dritto negli occhi senza dare spiegazioni. Si alzò il vento. Andrea e Lavia camminavano tra i fiori, finché non raggiunsero un'aiuola con al centro uno stendardo. Andrea e Lavia si fermarono per guardarlo. Andrea ne fu colpito. Lo stendardo raffigurava una figura femminile, che a braccia alzate puntava una spada verso il cielo. Andrea si voltò verso Lavia. L'hai già vista, disse Lavia. Non me la ricordo, rispose perplesso André. Lavia lo fissò dritto negli occhi senza dare spiegazioni. Gabriele riconobbe la figura dello stendardo. Lavia gli abbracciò il braccio e appoggiò la sua testa sulla spalla di lui come sua abitudine. Tieni, disse Gabriele porgendo il disegno alla ragazza. Le tre ragazze rimasero affascinate dalla figura inserita da Lavia. Potrebbe essere tutte voi, spiegò Lavia. Alan si svegliò con la certezza che la sua vita sarebbe cambiata drasticamente. Marcel si svegliò con una gioia di vivere incontrollabile, una felicità che lo sorprese, la certezza di una speranza che portava ad un futuro inatteso. Gerard si svegliò con l'intenzione di sistemare il camper e di invitare Franoise ad una lunga gita. Andrea, ancora addormentato, aveva davanti a sé lo stendardo con quella figura che elevava la spada al cielo. Ancora nel sonno si chiedeva perché la via diceva che l'aveva già vista. Dove l'aveva vista? Alan, Gerard, Marcel, Andrea parlarono del misterioso stendardo visto nel sogno che tutti e quattro avevano fatto nella stessa notte. Andrea affermò sicuro. E la guerriera che cavalcava accanto a Gabriele.